Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Si sta per chiudere una settimana importante, la nostra prima settimana di ritorno alla normalità. E la puntata di oggi vuole essere un'occasione per fare un primo bilancio, mettere a confronto le nostre esperienze, naturalmente con l'obiettivo di farne tesoro e proseguire il cammino adeguatamente preparati e ricaricati. L'esperienza ci insegna che il limite può diventare una risorsa, e questo credo possa valere anche per questi giorni in cui stiamo costruendo una nuova normalità. È una bella sfida, ce ne stiamo rendendo conto, ma è una sfida che vogliamo affrontare, superare con successo e per la quale possiamo allenarci, anzi in realtà noi lo stiamo già facendo insieme al team di psicologi di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica, che ha preparato per noi degli esercizi che ci permettono proprio di allenare competenze e abilità settimana dopo settimana, passo dopo passo, per affrontare adeguatamente, motivati e preparati questa nuova fase. In linea è tornata a trovarci la professoressa Gwendalina Graffinia, che è ordinario di psicologia dei consumi e direttore del centro di ricerca dell'Università Cattolica. Professoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Professoressa Graffinia, non è mai troppo tardi. Ecco, riprendo il titolo di una trasmissione di grandissimo successo per invitare chi ancora non sta seguendo il nostro programma di allenamento a unirsi a noi. Assolutamente, potete trovare tutte le puntate precedenti sulla pagina di Obiettivo Salute e anche sulla pagina del nostro centro, perché si tratta alla fine di semplici principi psicologici quotidiani che possono aiutarci a vivere meglio la nostra quotidianità e anche a supportarci nel cambiamento, nell'adattarci al cambiamento comportamentale, al cambiamento della situazione di vita. E il Covid-19 direi che è proprio l'emblema del cambiamento, perché è una situazione molto nuova da un punto di vista epidemiologico, scientifico, e a noi come cittadini richiede di saper navigare questa incertezza e saperci adattare. Quindi non è mai troppo tardi, assolutamente potete ritrovare gli spunti delle settimane passate, potete anche condividerli, ragionarci un po' con i vostri cari, con i vostri amici, perché si tratta un po' di imparare un modo nuovo per vivere la nostra quotidianità. D'altronde, professoressa Graffinia, non so se il paragone regge, ma spesso in occasione della prova costume, quando magari dobbiamo metterci un po' in forma, noi lavoriamo, facciamo esercizi per i nostri muscoli, facciamo gli addominali, no? Cerchiamo di raggiungere una forma, ecco, ci alleniamo il nostro fisico. Noi possiamo anche utilizzare le tecniche che la psicologia ci mette a disposizione per rafforzarci emotivamente, psicologicamente, ecco, dobbiamo riuscire a fare questa sorta di allenamento che magari ci è nuovo, però possiamo farlo in questo periodo particolare della nostra vita, ci può essere utile. Beh, anche perché la cosa più saggia che possiamo fare è investire su noi stessi, investire su come noi riusciamo a reagire alle difficoltà, che sono tante in questo momento, del nostro contesto. E questa capacità che possiamo apprendere è una capacità preziosa per tutta la nostra vita, quindi oggi ma anche in futuro, ed è importante testimoniarla anche alle persone che ci sono care. Noi allora, professoressa Graffinia, ci faccio un brevissimo riassunto delle puntate precedenti, così stuzzichiamo l'interesse degli amici che ancora non si sono uniti a noi, ma sono certa che lo faranno. Abbiamo parlato di empatia. Abbiamo parlato di empatia. Innanzitutto c'è da dire che stiamo lavorando a partire da un concetto scientifico, che è una parola un po' complessa in inglese, che si dice engagement, ma che ha portato molte evidenze scientifiche di come questo approccio psicologico sia importante nella salute, per promuovere il benessere e anche per promuovere l'aderenza alle misure preventive. A partire da questo. Qual è la parola italiana che traduce meglio engagement? La traduzione. Non c'è una bella traduzione, diciamo che come concetto vuol dire il coinvolgimento attivo, vuol dire sentirsi protagonisti della propria salute. Mi piace. Ecco, e quindi noi siamo partiti dall'acronimo di questa parola inglese per tradurla e per renderla semplice. Siamo partiti dalla E, che era empatia, perché la cosa importante oggi, ma anche in generale, è sapersi un po' mettere nei panni degli altri, diventare altruisti e capire e sintonizzarsi appunto emotivamente con gli altri. La seconda è cercare le giuste informazioni, navigare le giuste informazioni. Abbiamo parlato dell'importanza sia di riconoscere le fonti autorevoli, come Radio 24, come il sito del Ministero, eccetera, ma anche di saper governare un po' quella bulimia informativa di cui potremmo rimanere vittime. Cosa intendo? È quell'impulso di essere iperconnessi e di cercare continuamente informazioni, anche nelle chat con gli amici, anche nei vari canali anche informali. Questo alla fine poi ci confonde un po' più che aiutarci. E poi l'ultima settimana abbiamo parlato della G, gestire lo stress, perché indubbiamente ci viene richiesta un sacco di energia, di adattamento in questo momento, però possiamo trovare dei modi per staccare, per riprendere fiato anche psicologico, e quindi abbiamo dato dei semplici esercizi per riuscire a farlo. Professoressa Graffini, a proposito di stress, l'hanno ribattezzata la sindrome della capanna o del prigioniero, un'espressione che descrive quella sensazione di incertezza, di insicurezza che molte persone stanno sperimentando proprio in questi giorni, è una forma di disagio che porta a considerare la casa proprio come luogo sicuro, una capanna in cui rintanarsi per proteggerci non solo dai rischi del contagio, ma probabilmente anche da quella fatica di accettare una situazione che non vogliamo accettare o facciamo fatica a farlo proprio perché è diversa da quello che abbiamo lasciato o che ci siamo immaginati o abbiamo immaginato di trovarci. Sì, diciamo che questa sindrome, questa esperienza che potrebbe essere comune a molti di noi, si collega anche a quando ci sono dei cambiamenti importanti, e anche questa sindrome che potremmo avere di essere un po' ora legati a queste settimane precedenti in cui ci siamo chiusi in casa, in qualche modo ci siamo abituati, ci siamo sentiti in qualche modo più protetti da questa incertezza e da questa minaccia del virus. Adesso questa proposta di essere in una fase nuova, peraltro anche qua molto incerta, potrebbe spaventarci un po', perché sembra andare a demolire quello che faticosamente ci siamo costruiti. Beh, allora, da una parte innanzitutto è normale, è legittimo, perché è la difficoltà di cambiare, e dopo 2 mesi ormai abbiamo consolidato delle abitudini e adesso ci viene richiesto di fare delle nuove. Dall'altra parte però bisogna avere un approccio positivo e aperto, perché pensare che tutti questi cambiamenti in realtà possono essere delle occasioni appunto per investire su noi e per cambiare e adattarci meglio. Quindi ritorniamo un po' al discorso anche che facciamo prima, essere radicati alla nostra tana che ci siamo costruiti non è adattivo nel lungo termine, dobbiamo riprendere la speranza e la fiducia appunto anche in noi stessi e nella possibilità di farcela anche uscire con coraggio. Ecco, uscire con coraggio e anche a pensare ad un nuovo concetto di socialità, perché stavo riflettendo, noi spesso ricordiamo l'importanza del distanziamento sociale, in realtà quello a cui noi ci riferiamo è un distanziamento solo fisico, perché coltivare la socialità anche in modo diverso rispetto all'esperienza Covid è assolutamente fondamentale. Assolutamente sì, questo è un fattore molto protettivo per il nostro benessere psicosociale, molti studi l'hanno dimostrato anche proprio in queste settimane, e il mantenere il senso di essere parte di una comunità è importante, il mantenere quelle che sono le nostre relazioni, ma anche relazioni di vicinato, piuttosto che ovviamente le relazioni con i nostri cari, è fondamentale, e adattarsi ad averle un po' più immateriali. Quindi per questo, professoressa Graffigna, noi invitiamo sempre i nostri ascoltatori a restare distanti ma vicini, uniti, e possiamo farlo anche allenandoci insieme con gli esercizi che Engage Mind Hub e il suo team ci propongono. Tra poco l'allenamento di questa settimana. Prima però le informazioni sul traffico, poi ritorniamo insieme alla professoressa Gwendalina Graffigna per scoprire insieme l'esercizio di questa settimana. Poi ci sono anche i test per verificare il nostro livello di allenamento, ma poi voglio parlarvi dell'iniziativa che abbiamo lanciato martedì 5 maggio, un'iniziativa molto bella che ha a che fare con la gratitudine. solitudine e con uno degli scrittori più amati e più apprezzati, Andrea Vitali. Ma restate lì, che vi racconto tutto tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Ci mettiamo subito al lavoro, informati, motivati, attrezzati per affrontare questa fase 2. Dal punto di vista anche emotivo e psicologico, ci stiamo allenando con il team di psicologi del centro di ricerca dell'Università Cattolica, Engage Minds Hub. In linea con noi abbiamo il direttore del centro, la professoressa Gwendalina Graffinia, con cui abbiamo già chiacchierato nella prima parte della nostra trasmissione. Professoressa Graffinia, adesso mettiamoci al lavoro. Qual è la sfida, la competenza che alleniamo questa settimana? La parola chiave di questa settimana è affidarsi, che si lega a quel concetto di fiducia anche di cui parlavamo poco fa rispetto al distanziamento fisico o sociale, quindi la possibilità di mantenere delle relazioni di fiducia e investirci su, anche se queste diventano più immateriali. E come fare? Chiaramente è un processo lungo, perché bisogna innanzitutto considerare che la fiducia è all'interno di una relazione e dall'altra parte che va consolidata, costruita nel tempo. Possiamo lavorare però intanto sulla fiducia che noi abbiamo in noi stessi, perché se non crediamo in quello che è il nostro valore, la nostra unicità, sarà faticoso riuscire a anche un po' imporci, diciamo, in queste relazioni e soprattutto avere il coraggio di andare avanti e di adattarci. E allora, se posso darvi un consiglio, un esercizio pratico per questa settimana, è: fate il gioco dello specchio dell'unicità. Cioè, immaginate di guardarvi ad uno specchio, magari vi guardate anche veramente, e provate ad elencare quelle caratteristiche di unicità psicologiche di voi stessi, quelle cose che sono i vostri tratti di forza, quei tratti che vi rendono assolutamente unici e affidabili per gli altri, ma soprattutto per voi stessi, e che sono gli ingredienti su cui concentrare la vostra autovalutazione di voi, e che saranno proprio ingredienti preziosi per permettervi di tornare attivi come prima e tornare efficaci come prima anche in questa nuova fase del Covid-19. Professoressa Graffinia, e dopo aver fatto questa sorta di esercizio allo specchio, probabilmente dentro di noi qualche cosa ci porterà a essere grati per qualche cosa che abbiamo noi, che siamo riusciti a raggiungere, o qualcosa che è intorno a noi, nell'ambiente in cui viviamo, nelle persone che abbiamo scoperto, conosciuto, riscoperto, reincontrato proprio in questo momento così particolare della nostra vita. Gratitudine. E, ci piace pensare la gratitudine come un sentimento da cui ripartire, con il placet, come si dice, delle neuroscienze. La gratitudine non è solamente qualche cosa che ci suggerisce il nostro cuore e che ci fa stare bene, ma le neuroscienze ci dicono che la gratitudine attiva una serie di meccanismi biologici a livello cerebrale che inducono ad arrivare ad una condizione che ci aiuta a ripartire bene. Per questo abbiamo lanciato un'iniziativa che vogliamo condividere con voi, anzi saremo molto grati che voi partecipaste attivamente, e abbiamo chiesto ad un grande scrittore, uno scrittore amato e apprezzato, di mettersi al nostro fianco, e l'abbiamo in linea con noi, è Andrea Vitali. Ciao Andrea. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora Andrea, una bella avventura. Allora, intanto che ci sei ti sfrutto, ti sono grata, ma intanto ti sfrutto per invitare i nostri amici a partecipare a questa iniziativa, ma anche perché tu riesci sicuramente a trasferire un po' il cuore di questa iniziativa in modo efficace. Ma mi auguro di sì, anche perché è un'iniziativa che ha assoluta necessità di una grande collaborazione da parte di chi ti ascolta e che ha qualche episodio relativo alla gratitudine, e ce ne saranno numerosissimi da raccontare. tenendo conto, diciamo, che questi episodi, per quanto piccoli possano essere, racchiudono in sé comunque un nucleo narrativo, e è su questo semi narrativo che noi facciamo conto per poterli poi sviluppare e trasformare un episodio reale in un episodio eventualmente immaginario. Non servono, come ho detto, diciamo, grandi esempi di gratitudine, o perlomeno servono anche quelli, ma bisogna guardare anche nel piccolo, utilizzare, diciamo, una lente per scovare dalla realtà che abbiamo vissuto e stiamo vivendo anche quelle piccole cose di cui forse 2-3 mesi fa non ci accorgevamo assolutamente e che invece in questo periodo diventano di importanza fondamentale per una sopravvivenza non solo fisica ma anche morale. È una sorta di intelligenza emotiva, professoressa Graffigna, la gratitudine, possiamo descriverla così? Qui abbiamo bisogno della sua lettura, della lettura psicologica. Le neuroscienze hanno messo il bollino blu e ci spiegano quali meccanismi si attivano quando si pensa a qualche cosa, a qualcuno a cui siamo grati, ma anche ci si interroga solo, si cerca di trovare la ragione di cui essere grati. Dal punto di vista psicologico, che cosa ci dà la gratitudine? Perché può essere un sentimento da cui ripartire? Ci piace. Andrea, ne abbiamo parlato e me la paragonata, a me piace molto ad un mattoncino, come quelli con i quali costruivamo quei Lego con i quali costruivamo dei fantastici castelli. Mi piace pensare proprio alla gratitudine come un mattoncino, qualcosa di solido, di buono da cui ripartire. Professoressa Graffigna. Assolutamente sì, perché anch'io sposo questa bella parola e questo bel principio così utile anche in questi momenti di difficoltà. Innanzitutto perché ci permette di cambiare prospettiva e quindi adottare più facilmente una prospettiva più positiva. Insomma, la gratitudine è un po' un modo di vedere il bicchiere mezzo pieno e non soltanto mezzo vuoto, perché ci porta a soffermarci con gli aspetti di dono che abbiamo ricevuto da esperienze della vita quotidiana, dalla relazione con qualche persona cara, da anche le novità o le incertezze che possono capitare, quindi un po' cambiare approccio, vederlo positivamente. Penso che questo si leghi anche moltissimo in quello che dicevamo prima della fiducia in se stessi, certo, e la fiducia negli altri. Allora partecipi anche lei, professoressa Graffigni, aspettiamo, anzi poi noi giriamo tutto queste storie di gratitudine, messaggi, pensieri, riflessioni ad Andrea Vitali, che ne trarrà degli spunti per creare nuovi racconti. Ma Andrea, come si fa a essere scelti da te? Ma devo dire che non esistono. Dacci qualche suggerimentino, perché io vorrei tanto, mando anche la mia, ma chissà poi se la sceglierai. Esatto, ma guarda, io non essendo un intellettuale, non essendo un teorico, ma essendo solamente, diciamo, un raccontatore di storie, ti racconto, diciamo, uno dei tanti episodi di gratitudine che mi è capitato di verificare in questo periodo, ed è stato, diciamo, il sorriso di una signora anziana, quindi obbligata a stare in casa stante le misure restrittive, che si è fatta portare un cornetto da un volontario della Protezione Civile, tra l'altro in un giorno particolarmente caldo, per cui il cornetto, quando è arrivato a casa da questa signora, era praticamente mezzo sciolto. Nonostante tutto, diciamo, la signora ha tentato di abbracciare, non ricordandosi che l'abbraccio era proibito, ha tentato di abbracciare questo povero volontario che ha fatto quello che ha potuto, naturalmente. Ecco, in questo io intendo, diciamo, episodi di gratitudine non macroscopici, ma che abbiano comunque in sé quel seme anche di divertimento, perché in mezzo a tutto questa è anche una storia divertente. Certo. Allora, che cosa dovete fare? Potete scrivere a Obiettivo Salute @radio24.it oppure lasciate un messaggio vocale al 335 830 4306. Lo so che è difficile prendere appunti, ma noi mettiamo tutto sulla pagina di Obiettivo Salute. E intanto proviamo a prendere due piccioni con una fava. Ci guardiamo allo specchio per fare l'esercizio suggerito dalla professoressa Graffigna, per capire, no, che cosa, dove recuperare un po' la fiducia. E nello stesso tempo, quando ci guardiamo allo specchio, Andrea, può essere anche dire: ma sai che ti sono grato, caro amico, che oggi mi sei un pochino più simpatica? Potrebbe essere così? Potrebbe essere così. così, l'importante è non spaventarsi quando uno si guarda allo specchio. Questo bravo, sì. È vero, è vero. Grazie alla professoressa Grafigna per essere stata con noi, grazie ad Andrea Vitali che ci dà una grande mano, una gran penna. Andrea, un abbraccio. Altrettanto, virtuale. Virtualissimo, virtualissimo. Domani è la festa della mamma e noi abbiamo pensato di portarci un po' avanti e di pensare alle mamme, alle donne che stanno diventando mamme in questo periodo sicuramente un po' delicato. La gravidanza è un momento particolare della vita di una donna, ma la gravidanza durante l'emergenza Covid ha inevitabilmente portato tante mamme, anche tante famiglie, perché quando nasce un bambino è tutta la famiglia che viene coinvolta, ad avere timori, preoccupazioni. E allora noi abbiamo invitato un grande esperto, e in linea con noi il professor Enrico Ferrazzi, direttore della clinica ostetrica Mangiagalli Policlinico Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Professore, grazie. Noi, festa della mamma domani, ma è meglio iniziare a festeggiarla? E oggi il nostro pensiero, il nostro augurio va a tutte le mamme che con il pancione stanno aspettando di vedere il loro bambino. Professor Ferrazzi, un momento questo un po' delicato, ma io sono certa che lei riuscirà a mandare alle mamme, alle loro famiglie, ai loro compagni un messaggio rassicurante, positivo, di ricostruzione, di fiducia. Ma io penso che debba sempre rimanere un momento straordinario anche in questa fase un po' difficile nella vita delle persone, nella vita delle famiglie. Figlio è sempre un momento bellissimo, la nascita è un momento indimenticabile e come tale va vissuto. Per la sicurezza di tutti stiamo facendo in modo che ci sia la possibilità comunque per il papà di essere presente al parto. Questa è la ragione nostra e un po' in tutta Italia, le linee guida della società scientifica hanno sostenuto di mantenere questa presenza importante al momento del parto. E adesso nella fase 2 stiamo riaprendo anche i puerperi, perché per un qualche periodo, per evitare affollamenti, avevamo chiuso il puerperio al papà, cioè i giorni, due o tre giorni di degenza, avevamo chiuso il papà. Adesso stiamo riaprendoli qui e credo in tutta Italia, ovviamente con le cautele, le prudenze che comunque vogliamo mantenere, però è un puerperio, è altrettanto un momento di legame bello tra il papà e il bambino appena arrivato, e quindi sicuramente vogliamo garantire anche questo. Accetteranno i papà e le mamme qualche piccola restrizione sugli orari. La maggior parte degli ospedali ormai, ad esempio, il papà poteva entrare dalle 8 alle 8, ecco, questo cercheremo di invece di contenerlo a evitare affollamenti, però vogliamo assolutamente salvaguardare, e questo ve lo dovete aspettare, salvaguardare quei bei momenti di intimità, di famiglia, di vicinanza tra il papà e la mamma e la neomamma e il neobambino. Professor Ferrazzi, vorrei chiederle, prima di salutarla, una rassicurazione alle mamme riguardo a eventuali rischi che il Covid può trasmettere al bambino. La letteratura, i risultati della letteratura ci mandano dei messaggi assolutamente rassicuranti. Sì, sono molto rassicuranti anche le survey italiane, per non fare sempre riferimento a quelle cinesi che anzi erano più preoccupanti. E quanto abbiamo potuto valutare, il rischio di gravità della mamma è molto molto molto molto basso, e per questo ci sono gli ospedali dove in caso ci si può orientare quando ci fosse un'infezione, ma anche in quel caso fortunatamente il rischio di passaggio al bambino si conta con lo 0,01%, quindi è veramente un evento rarissimo il passaggio del virus dalla mamma al bambino a tutte le epoche di gravidanza. Quindi chi è gravida oggi comunque mantenga quanto verrà comunque raccomandato, come certo, il distanziamento, le mascherine, eccetera, che funzionano benissimo, le mascherine sono assolutamente importanti, però stia sicuro che il bambino dentro la sua pancia sta bene e non ha problemi. E noi lo aspettiamo, professor Ferrazzi, possiamo dire così. Noi l'aspettiamo, ci sentiamo tutti zii. Professor Ferrazzi, io la ringrazio per essere stata con noi. Un abbraccio a tutte le mamme, arrivederci. Grazie, grazie. Io ringrazio anche Filippo Aureggi in regia alla parte tecnica, Miriam Lucchetti in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Mi raccomando, gratitudine, io vi sono grata. Aderite alla nostra iniziativa, scrivete, scatenatevi, noi stiamo già sorridendo. E io vi aspetto domani per una nuova puntata della Bufala in Tavola, sempre a mezzogiorno. Buona giornata da Nicoletta.